L'airone da favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi agosto 2007 Roma. L'airone dal lungo collo e dal più lungo becco che sta su gambe lunghe a spasso iva nel secco d'un torrentello e arriva. Come nei giorni belli erano l'acque chiare e i miei dolci carpioni vedevansi guizzare coi lucci in comitiva. Venian tanto d'appresso ch'avria potuto al solo mover del becco e come se li pigliasse a volo mangiarseli in buon'ora. Ma volle invece attendere d'aver più fame. Assai egli era in ciò metodico e non usava mai mangiare fuori d'ora. Tornato pien di fame più tardi sulla sponda non vide altro che tinca di sguazzar nell'onda e fece il disgustato. Così come dicesse di tinche son già sazio. Egli era come il topo, di cui racconta Orazio, d'un gusto delicato. «Di tinchi a me», diceva, «un così rozzo pasto non piglia un airone per farsi il sangue guasto». Vedendo poi dei ghiozzi, «nemmen per questi», aggiunse, «s'incommoda un par mio a spalancare il becco, e non pretende Dio ch'io questa roba ingozzi». Ma ben dovette aprirlo per minor prezzo, allora che i pesci non si videro nell'acqua della gora. La fame non si plaga col fumo e dir non basta, io sono un airone. Aggiunge al fin la favola che parvegli un boccone squisito una lumaca. Fine della favola, l'airone. Questa registrazione è di dominio pubblico.